Risa. Research Institute for Spontaneous Actions. Istituto di ricerca per azioni spontanee. È una navata di zucchine. Bellissima, ma è un'architettura. Guarda dove. Vabbè, comunque qua Cicco mi sta sbizzarrendo alla grande. Abbiamo veramente capito cosa stiamo facendo, oppure diciamo anche noi stessi annaspiamo sul livello di complessità in cui pensiamo di starci dentro e poi in realtà ci lasciamo sottomettere da una scadenza così a breve termine a cui magari avremmo da dire guarda ma perché ma il problema è anche questo proprio della regolarità con cui cioè non è che abbiamo una riunione alla settimana, no, infatti è già questo per me, non ti dico che è un errore, cioè ci sto pensando adesso per dirti perché non ci incontriamo una settimana, una volta alla settimana, una volta ogni due settimane regolarmente, al di là della quarantena di sti cazzi. Cioè, abbiamo messo in mente di avere una band stasera, ma poi non ci abbiamo lavorato su. Ma in realtà c'è Cicco che dovrebbe avere una loop station. Anche un po' demodé, Leo. Sì, no, ma infatti io. Cicco, come siete arrivati da Van Gardening a parlare di criptovalute? Perché abbiamo detto aspettiamo Ale un attimo che si collega e... allora paura no, è stato un crescendo forse di consapevolezza e di capacità di interpretazione, perché all'inizio devo dire veramente ho un ricordo molto bello delle prime la prima settimana di isolamento, perché io avevo bisogno un po' di fermarmi evidentemente, quindi è stato un tempo di un fermarti che poi ovviamente non è tipo dormire a mezzogiorno, insomma, riprendersi un po' di spazio, di tempo, di respiro, di pensiero, così. E poi è come se però il prolungarsi di questa cosa che tu stai a Milano, no? Io sto ad Alcamo. Vabbè, allora faccio subito outing che la mia famiglia è di origine trapanese, quindi io sono legata a Trapani e il compagno di mia sorella è alcamese e c'ho un sacco di amici ad Alca. With which shine face. Sulle nostre attività semplificato, diciamo, deve essere uno strumento che ci aiuta, non uno strumento che ci opprime. Cioè scoprire che è, cioè a me interesserebbe scoprire delle cose e automatizzarle, che ci liberano dal dover pensare magari che tutto quello che stiamo facendo sia inutile. Noi in questo momento avevamo con l'associazione Mare Memoria Viva, di cui faccio parte, molti progetti nell'ambito del contrasto alla povertà educativa, con questi bandi dell'impresa sociale con i bambini, e quindi avevamo programmato una serie di attività che erano attività, diciamo, creative, laboratori, rivolte ai bambini del quartiere di Brancaccio, Romagnolo e Sant'Erasmo, che è quello dove lavoriamo. E quindi in un primo momento le attività si sono sospese perché il museo è chiuso. E poi appunto dopo un paio di settimane sono arrivate delle linee guida, delle indicazioni da parte dell'impresa sociale con i bambini a provare a convertire quelle attività che era possibile convertire appunto a distanza. Noi in realtà un altro progetto che avevamo in corso, che invece è finanziato dalla Chiesa Valdese, l'abbiamo immediatamente riconvertito, cioè ci abbiamo pensato noi ancora prima che arrivassero indicazioni dai valdesi, abbiamo mandato una mail chiedendo di poter continuare l'attività di dopo scuola che facevamo 3 giorni a settimana il pomeriggio al museo, provando a seguire anche diciamo da casa questi eventi famiglie, questi eventi bambini che frequentavano il dopo scuola. E quella è stata una scelta positiva, stiamo facendo questo esperimento, ci rendiamo conto di settimana in settimana che è una cosa molto utile, perché non è soltanto il supporto scolastico, chiaramente si è trasformato. Noi già questo dopo scuola era organizzato con una parte del tempo dedicato ad aiutare i bambini a fare i compiti che avevano per casa da scuola, e una parte erano invece attività legate alla dimensione della relazione affettiva, creativa, insomma quello su cui noi di solito lavoriamo, e siamo riusciti, diciamo, a tenere questa relazione. Ci rendiamo conto veramente di quanto è importante, perché ovviamente sono famiglie che vivono delle condizioni molto difficili, sia nella transizione digitale della scuola, perché non hanno i mezzi, né i mezzi tecnici, quindi l'hardware, né capacità magari di accesso alle informazioni, di fare ricerca online. Quindi stiamo facendo un'assistenza ai bambini a questo, quindi sulla didattica a distanza, ma poi diventi anche un po' un punto di riferimento per per altre cose, c'è una chat con le mamme dei bambini che diventa anche un modo, no, per così confidare paure, preoccupazioni, per rimanere in contatto e per monitorare la situazione anche legata alle povertà, perché ci sono famiglie che ovviamente sono anche in difficoltà e quindi quando possiamo magari diamo delle indicazioni sui servizi che il comune ha attivato, insomma, dove si può chiedere il sussidio, dove si può andare in caso di oppure dubbi su tutta la dimensione sanitaria, della prevenzione, del contagio, Certo. eccetera. Quindi questa per esempio è un'esperienza positiva che stiamo Positivo. facendo, devo dire. Ma guarda, dal nostro osservatorio quello che emerge più palesemente è il tema del digital divide, comunque delle disuguaglianze che sono legate all'uso delle tecnologie, che ti ripeto riguardano non soltanto la questione dell'hardware, quindi possedere o non possedere un computer a casa, quanti smartphone ci sono in una famiglia, chi ha il tablet e chi non ce l'ha, ma anche nella capacità di utilizzo consapevole poi della tecnologia stessa. Quindi da un lato c'è un problema di accesso proprio alle risorse, quindi al possesso dei device, ma dall'altro c'è anche una grande disparità nella capacità di orientarsi in un modo sensato nel mondo del web. Quindi da un lato è bellissimo tutto questo proliferare di strumenti, di offerta culturale, educativa che c'è sul web e che tante organizzazioni stanno condividendo, ma non tutti sono capaci di arrivarci. Chiaramente lì, come dire, la tua cerchia di relazioni, no? Il gruppo sociale, no, di cui fai parte conta molto. Quindi io ogni volta che uso Facebook mi sento fortunata perché il mio Facebook è ricchissimo in questo momento di opportunità, di condivisioni, ma sono molto consapevole che non per tutti purtroppo è così. Quindi una forma di accompagnamento, di aiuto anche sull'accesso ai contenuti online è molto importante per lavorare su queste forme di disuguaglianza. A me sembra che si parla molto appunto del primo argomento, cioè chi ha il computer e chi non ce l'ha, chi ha lo smartphone e chi non ce l'ha, ma c'è un altro tema altrettanto importante che è la capacità di usarli in una maniera, insomma, generativa. Non ce la faccio più a guardare gente nello schermo, vi giuro. Ma hai ragione, Gio, ma che stiamo a Mi sto fare? male. No, vabbè, mica ce l'avevo con voi, dicevo. Dopo un Lo po' so. cioè, vi ho ascoltato con attenzione, ma divento, cioè, apatico. Non riesco più a. Non lo so, ce la faccio. Prendo tipo 7-8 ore al giorno di lezione sullo schermo. Minchia che alienazione. Tremendo. Minchia, mi sarei subito disiscritto dall'università. Che è un po' è questa cura che cambia poi diciamo, l'impatto di quello che noi facciamo. Perché se noi ora, per esempio, banalmente decidessimo di non prenderci cura di questa cosa di avant-gardening, non accadrebbe. Sì, ma Quindi. cioè, nella comunità le persone si prendono cura uno dell'altro anche, cioè parlo anche proprio di relazione, cioè prendersi cura delle relazioni tra le persone che fanno parte di una rete. Cioè far sì che se tu sai che quella persona, cioè come collegare le persone, inventarsi modi per spronare le persone, cioè quella è Certo, sicuramente ma cura. infatti io guarda, devo dirti che. Però delle volte tu non è che lo fai perché ti va di farlo, ma perché, cioè, sai che è importante. Stare più a una discussione, diciamo, di natura esistenziale, filosofica, dove tu ti prendi cura delle cose perché di base ti fa star bene. gli spazi di libertà, sull'importanza che ha crearli, sul che tipo di esperienze ci danno e perché ricerchiamo un dato contesto rispetto ad altri. Tra di noi, da un punto di vista teorico, pratico, tecnico, quello che vuoi, cioè il discorso è semplicemente una catena di produzione, tra l'altro rispetto alla quale nessuno poi sa bene veramente perché, ma rispetto a vari livelli, ora magari è uscito con Van Gardening, ma... Sì, ma per quello io quando parlo tipo dell'andare per passi e del darci delle tasche e risolvere quelle, non è nello Certo. Però cioè, è tutto sempre sconnesso. Ma sì, ma perché questa è un'altra mostra, ma che qualcuno spinge più di altri, come per esempio io ho la tendenza all'accelerazione, Frank ha la tendenza al rifiuto dei task, tu per esempio hai un'ansia da... cioè ognuno porta dentro qual è, come dire, il sentimento che lo muove individualmente, ma come dire, così come Ale porta dentro la sua pigrizia, che però è anche, diciamo, fonte poi di immaginazione, o piuttosto ciclo, cioè ognuno ha questa duplice tensione distruttiva e creativa. Il problema è che se tutti, cioè io quello che volevo significare nel mio messaggio, magari non ci sono riuscito, però quello che volevo significare è che se tutti ci lasciamo andare ai pensieri distruttivi, non esiste niente, cioè nel senso, cioè di che cazzo stiamo parlando? Perché se tutti giriamo subito, cioè se tutti guardiamo il lato negativo delle cose, almeno che questo non è, come dire, fa parte di un ulteriore meta livello di riflessione, in cui, diciamo, può essere pure che è totalmente con un atteggiamento decostruttivo, nichilista, distruttivo, quello che vuoi, tirando fuori tutto il peggio dei nostri caratteri, chissà che cosa ne viene fuori. Però, come dire, se di nuovo, se non c'è regia, se non c'è un pensiero, a me diventa anche noioso farlo. Dico, cioè, non è che possono essere pippe mentali mie, o di Frank nel momento della radio, o di Anna nel momento di Twitch, o tuo nel momento in cui fai un'altra cosa in cui vuoi significare risa per tutti. Cioè, a me quello che dispiace è che non c'è un coordinamento. Ma molto, molto importante per la costruzione di una comunità, cioè rendersi conto di dove sta la cura, quando è invisibile, come interagire quando si sta insieme, l'importanza di creare uno spazio confortevole in cui incontrarsi e permettere anche l'incontro con le persone esterne, quindi costruzione proprio di spazio sociale, pratiche di cura radicale, di creazione, di prendersi cura delle relazioni, ma non come cioè lo devo fare. Cioè, ogni volta di capire come migliorarsi, come cercare di avere un basso impatto in quello che si fa e che si ha, sia sotto un punto di vista di cibo che sotto un punto di vista di materiali. Thank you. Allora, la premessa è che noi, diciamo, come associazione operiamo in un crinale che sta tra la cultura e il sociale, perché appunto gestiamo l'Ecomuseo, che è uno spazio culturale, ma facciamo molte attività legate all'inclusione, quindi i nostri temi sono quelli appunto della partecipazione culturale, dell'innovazione civica, della cittadinanza attiva, e lavoriamo in un territorio appunto che ha un altissimo tasso di dispersione scolastica, basso tasso di partecipazione culturale, quindi chiaramente c'è un lavoro che è molto legato ai nuovi pubblici, a sostenere la domanda di cultura. E, dico questo come premessa perché il tema in cui un po' mi sto interessando è tanto quello sta un po' a metà tra le politiche culturali ma anche le politiche sociali, e in un momento come questo in cui appunto la disuguaglianza aumenta e purtroppo le povertà, intanto la povertà educativa quanto le forme di povertà economica si stanno enormemente ampliando, bisogna tenere un po', come dire, presidiare entrambi i mondi, e in particolare quell'appello a cui ti riferisci è un appello che riguarda il mondo del non profit, diciamo del terzo settore. Noi abbiamo raccolto e argomentato anche, come dire, puntualizzando alcune questioni, una proposta che è stata fatta da Carlo Borgomeo, che è il presidente della Fondazione Con il Sud, una proposta che si articola su due fronti, diciamo. Da un lato, e questa è una battaglia che ci sta molto a cuore, è quella di accelerare, approfittando in qualche modo il momento che stiamo vivendo, una transizione dall'attuale forma di finanziamento agli enti del terzo settore, culturali e non culturali, che si basa essenzialmente sulla logica del finanziamento per progetti. Quindi la maggior parte del mondo delle fondazioni bancarie appunto fa dei bandi e finanzia le organizzazioni del terzo settore attraverso l'approvazione di progetti. Questa è una cosa che affatica moltissimo il nostro lavoro, perché non tiene conto dei costi di struttura e impedisce quindi alle organizzazioni di crescere, di investire in formazione, di investire in ricerca, in possibilità di sviluppo. E anche degli effetti molto concreti sul tema del precariato del lavoro degli operatori sociali e degli operatori culturali, perché si fa molta fatica a gestire un'organizzazione e a rafforzarla quando sei obbligato dalla dinamica del progetto a investire la maggior parte delle risorse sulle attività. Banalmente e assurdamente non si tiene conto che per realizzare quelle attività che devono avere ed è giusto che abbiano un impatto sociale c'è bisogno però di persone che quelle attività le realizzino, che lavorino, e quindi si crea una situazione abbastanza paradossale in cui molto spesso la condizione di vita e di lavoro degli operatori del terzo settore è abbastanza simile, no, a quella dei cosiddetti destinatari o beneficiari di quelle azioni che il terzo settore mette in campo. E quindi questa proposta, che oltre che da Borgomeo è stata anche più volte avanzata da Carola Carazzone, che è la segretaria generale di Assifero, che è una grande associazione di fondazioni di impresa, di fondazioni bancarie, e, insomma, ci è sembrato che fosse il momento giusto per rilanciare, no, su questa questione qui, perché è una questione legata anche alla sopravvivenza delle organizzazioni del terzo settore. L'altra proposta che Borgomeo fa riguarda invece lo specifico del Sud, è la possibilità di utilizzare i fondi non impegnati, che per dire in Sicilia sono tantissimi, dei fondi strutturali europei per sostenere il terzo settore. E, al di là della proposta concreta, c'è una visione politica dietro questa cosa, cioè una visione che cerca di rimettere al centro appunto le organizzazioni del terzo settore come le organizzazioni che hanno la capacità di rispondere ai bisogni reali dei territori e di valorizzare le risorse che nei territori ci sono. Quindi poco importa tutto sommato se i fondi li prendono dai fondi strutturali o da altri capitoli di Certo. spesa. Quello che ci sembra interessante è un riconoscere il ruolo sociale appunto di chi lavora nelle città, nei territori, nelle aree interne e che spesso appunto il cui lavoro spesso non viene né sostenuto né messo al centro delle politiche culturali e delle politiche sociali, mentre invece poi chi nei territori ci sta sa bene quanto soprattutto al sud, dove purtroppo spesso l'inefficienza e l'inefficacia dell'operato delle amministrazioni pubbliche è devastante, quello che poi permette che la nave non affonda, nella maggior parte dei casi, è il lavoro delle associazioni, degli attivisti, di tutti i gruppi del terzo settore. Come mettere in campo diverse persone vicine. Ho lavorato più e più volte sul dar valore alla cura, dar Sì. valore a qualcosa che diciamo è difficilmente misurabile. Perché il punto qual è? Dato che non sono indicatori economici, non parlano di per sé. Cioè, non è sempre facile dire abbiamo investito 3.000 euro, abbiamo guadagnato 15.000 euro, questo lo capiscono tutti. Laddove invece tu investi 5.000 euro, ci rientri di 3.000 euro, però attorno a tutta questa cosa è successo un altro bordello di cose, cosa che diciamo ora si comincia a chiamare impatto sociale, circa 3-4 anni. Dietro però alla misura di questo ci stanno delle scelte che io definisco politiche, nel senso che siamo noi a decidere se dare valore al fatto che su una determinata finestra temporale, per un determinato numero di giorni, abbiano partecipato alla produzione di questa attività a 8 persone. Per noi questa cosa ha valore o non ha valore? Che queste persone si siano mosse principalmente da basi che sono lontane dal centro poi operazionale, che in questo caso è la Sicilia, perché mi sto concentrando qua, ha valore o non ha valore? Se no, sembra sempre che tipo quando stiamo insieme fisicamente funziona tutto, ci coordiniamo, facciamo le cose, ci divertiamo un sacco ed è tutto bellissimo. Poi appena ritorniamo ognuno a vivere, diciamo, le sue vite, le proprie vite indipendenti, poi quando ci vede a sentirsi è sempre ma non posso, oppure quello, oggi sono triste, oggi sono felice. Non lo faccio perché se lo faccio devo essere pagato, non voglio essere pagato, ma voglio essere pagato. Cioè, non lo so, Sì, dico, per quello ho nella mia testa, cioè. questa roba qua, secondo me la rivendichiamo in tutte le cose che noi facciamo, con una unità minima di significato e di forma, per cui può essere un Google Drive una volta, può essere un libretto, o il sito, se riusciremo mai, o l'Instagram, cioè. Però dico, o di questa cosa noi riusciamo a fare una radicale presa di posizione su uno stile di vita, oppure il motivo per cui loro ce lo chiedono di partecipare per esempio a questa cosa, oppure qualcuno può essere interessato a quello che noi facciamo, è un'ulteriore finzione che io non ritengo sia necessario portare avanti. Grazie. Serve un cambio di paradigma e serve la capacità di essere molto, molto più del solito, adattabili, perché le variabili sono talmente tante in questo momento che non si possono fare previsioni certe di quello che succederà. In questo senso capisco quando dici il futuro non c'è. Il futuro non c'è nella misura in cui non c'è possibile, o meglio, cioè, viene ancora più difficile fare delle previsioni che ti permettano di pianificare un'azione anche a breve termine. E quindi penso che quello che invece possiamo fare è consolidare le reti sociali, condividere pensieri, opportunità, risorse, farci insieme le domande per trovare delle risposte che necessariamente cambieranno in un tempo breve, cioè, quindi tenere questa capacità di veramente di presenza, di attenzione, di interrogazione. Il dubbio è generativo in questo momento e quindi non azzardo ipotesi sul futuro, ma cerco di essere fiduciosa e so che posso esserlo perché non sono sola. Cioè, io mi aspetto una trasformazione profonda della fruizione culturale, dei luoghi di aggregazione, quello avrà tempi lunghi e dovremo inventarci dei modi che anche, non lo so, no, la domanda che un po' nella dimensione domestica ognuno sta vivendo, no? Nella sua dimensione relazionale, cioè la domanda di come si trasforma la relazione nel momento in cui è negata la vicinanza dei corpi. E da operatore culturale come posso lavorare su questo sapendo che ci sarà un tempo lungo in cui la vicinanza dei corpi, col cuore che sanguina, lo dico, dovrà essere controllata, non sarà libera. E quindi è una domanda che fa paura, è verissimo, ma è anche una domanda a cui responsabilmente, ci piaccia o no, siamo chiamati a rispondere. E io penso che proprio credendo nella forza anche dell'intelligenza collettiva e connettiva, possiamo essere in grado, con il giusto tempo, sperimentando, a trovare delle risposte, che non siano banali e che non siano, che siano dense di senso. Possiamo, anzi, dobbiamo provarci, perché purtroppo non avremo molte alternative, così come tutti gli argomenti che tu citavi, il tema dei confini, delle frontiere, delle migrazioni, il tema del rispetto della connessione con la terra, del rapporto con la natura, cioè il tema dello spreco, dell'iperconsumo. Io mi auguro, non ne sono certa, mi auguro che visto il trauma, perché il trauma è una cosa importante, cioè, visto il trauma e l'esperienza traumatica che così tante persone nel mondo stanno vivendo, non possano poi essere temi che rimangono temi di nicchia di quelli come noi che ci hanno sempre creduto in quelle cose. Io penso che alcune cose non potranno non diventare evidenti. Anche questo confronto tra il mondo rurale, il mondo agricolo e il mondo produttivo e dell'industria. È palese a tutti che quello che serve adesso e quindi anche quello che sta continuando a lavorare è la produzione del cibo di prossimità. E io spero che non ce le dimenticheremo certe cose dopo. Assassination of his father! Il cardine delle armi! Tu invadi di Italy! I said Italy! Not Italy, Italy! Assassination of his father! Ogni volta che sento qualcuno è sempre appunto è quello che hai detto tu, cioè scambiarci questa interpretazione poi dei... Sì, no, ma infatti anche questa, questa iniziativa della radio e soprattutto come me la raccontavi anche come tentativo di connessione tra il nord e il sud, io sì. Ci ho pensato molto perché io vivo a Palermo, lavoro a Palermo, ma ho molte connessioni e anche faccio parte di un'impresa sociale che è fatta da 10 soci che stanno in tutti in città diverse, quindi ho molti contatti con il nord e ci ho pensato molto a questa, a come anche l'esperienza che l'Italia sta vivendo, questa esperienza di pandemia che l'Italia sta vivendo, mette in discussione, no? Molti la relazione che abbiamo vissuto sempre in maniera molto dicotomica e statica, no? Tra il nord e il sud, il fatto appunto che la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Piemonte siano ancora le regioni più colpite dalla malattia e dal contagio, non lo so, mi fa pensare, non toglie la differenza, ben inteso, non penso che capovolgerà la situazione, perché comunque come tutti i fenomeni sociali anche questa pandemia si innesta su dei contesti e su realtà, no? Che erano che hanno delle loro caratteristiche specifiche. Anzi, al contrario, penso che possa far emergere in una maniera più visibile, e questo ci permetterà di operare di conseguenza quali sono le differenze profonde, no? nel tessuto sociale, nel tessuto economico tra nord e sud Italia, e magari anche con la possibilità di trovare nuove forme di vasi comunicanti.